John Lennon, playing all those mind games. Oh, vi avevo promesso un pezzo su Frank Zappa e per Chuck Berd ogni promessa è debito. Come molti sanno, Frank Zappa non lavorava mai a un solo progetto per volta. Due erano il minimo indispensabile. Ne iniziava uno e dopo un po' gli venivano idee per un altro, poi ne iniziava un altro, poi un terzo, un quarto. Prima ancora che uscisse We Are All In It For The Money, il gruppo iniziò a registrare un altro album e contemporaneamente a lavorare al missaggio delle registrazioni di Uncle Meat. Durante la pausa di una session per un qualche altro album, Frank Zappa e Mothers of Invention se ne stavano lì, seduti a chiacchierare dei vecchi tempi del liceo e del doo-wop. Ray Collins e altra gente della band iniziò a canticchiare. Poi qualcun altro si mise al piano e qualcun altro ancora andò alla batteria e così via. Immediatamente Frank disse: «Ehi, facciamo un album con questa roba!» Fu così che nacque Cruisin' with Reuben and the Jets. Il giorno successivo Frank Zappa arrivò con gli spartiti per tutto il disco. Era così che lavorava Frank Zappa. Ecco spiegato come lui, da solo con i Mothers of Invention, riuscì a incidere dal 1966 fino alla sua morte non meno di 65 album, raccolte escluse. Eccolo qui col disco del 1979 intitolato Shake Your Booty. Questa è Dancing Fool. About dancing, that's why I got this song. One of my legs is shorter than the other and both of my feet's too long. Of course, not right along with them, I got no natural rhythm, but I go dancing every night, hoping one day I might get it right. I'm a dancing fool. I jump out of my seat, but I can't compete, cause I'm a dancing fool. Dancing fool. The disco folks all dressed up like this fit to kill. I walk on in and see them there, gonna give them all a thrill. When they see me coming, they all steps aside. He has a fit while I commit my social suicide. I'm a dancing fool. Dancing fool. I'm a dancing fool. Dancing fool. The beat goes on and I'm so low. The beat goes on and I'm so low. Wrong, but I'm a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a dancing fool. Yowza, yowza, yowza. I got it all together now with my very own disco clothes. Hey, my shirt's half open to show you my chain and the spoon for up my nose. I am really something, that's what you'd probably say. So smoke your little smoke, drink your little drink, while I dance the night away. I'm a dancing fool. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a. I may be totally wrong, but I'm a fool. Yeah. Hey, darling, can I buy you a couple of drinks? Looking for Mr. Goodbar? Here he is. Wait a minute, I've got it. You're an Italian. Huh? You're Jewish? Oh, love your nails. You must be a Libra. Your place or mine? Yes. The best rock and roll station in the world. It's Rock FM. Grande musica qui all'Early Bird Special, perché ai miei passerottini e le mie passerottine non voglio fare mancare nulla. Questi erano i Marillion con Lavender e naturalmente non mancano le hit. Questi sono Rapid Eye Movement, più confidenzialmente chiamati REM. Losing My Religion. Set it up.

le mie scarpe scamosciate blu sono quelle che mi servono per ballare. Anche se solo mercoledì, qui si balla. Soprattutto quando arriva gente come Carl Perkins qui all'Early Bird Special. Io sono Chuck Bird e insieme a me qui, silente ma presente, la dolce Cherie che proprio in questo momento mi sta portando la mia tazza di caffè nero bollente. Merci, Cherie. C'è chi nel caffè ci mette lo zucchero, chi preferisce la panna, chi lo vuole schiumato. qui all'Early Bird Special, se volete, vi mettiamo dentro anche un goccio di whisky. Whisky Rock and Roller erano Lynyrd Skynyrd, ospiti all'Early Bird Special, la prima colazione qui da Rock FM, un gruppo di grandi, grandissimi della storia della musica rock, riuniti sotto un solo moniker, Traveling Wilburys, Handle with Care. Sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's tolerable. But baby, you're adorable. Handle me with care. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and beh, la musica è sempre la cosa più importante e lo sarà sempre. Ma al tempo degli album, degli LP per intenderci, anche la copertina aveva una grande importanza. Prima di MTV, di internet, l'immagine di una band agli esordi era affidata alla copertina del primo album. I Kiss nel 1974 incisero il loro primo album e non erano in molti a conoscerli fuori dal circuito glam rock newyorkese. Per questo la casa discografica chiese a Joel Brodsky di scattare la foto di copertina. Joel era uno dei fotografi più importanti dell'ambiente rock, aveva già realizzato gli scatti per le copertine di Carly Simon, dei Nads e soprattutto aveva fatto lo scatto per Strange Days dei Doors. I Kiss, grandi fans dei Beatles, volevano che il loro primo album ricordasse Meet the Beatles, con le loro facce in evidenza sul fondo nero. Ad un certo punto il grande fotografo chiese chi dei quattro voleva tenere in mano un palloncino colorato. Un palloncino colorato, disse Gene Simmons, il bassista della band. Che ci vuoi fare con un palloncino? E il fotografo rispose tranquillissimo. Ma sì, ho capito cosa volete fare con quel trucco. Volete sembrare dei clown. E secondo me un palloncino colorato sarebbe il massimo per la copertina. Fortuna che non gli hanno dato retta, eh? E non so esattamente cosa gli abbia risposto Gene Simmons. Una cosa è certa: i palloncini non sono mai apparsi nella copertina del primo album dei Kiss. Eccoli qui con Deus. Solo grande musica, questa è la parola d'ordine per l'Early Bird Special. Non è che durante le altre 24 ore qui da Rock FM trasmettiamo delle cose orribili o della robaccia, no, però all'Early Bird Special cerchiamo proprio i brani che servono ai passerottini e alle passerottine per affrontare al meglio la giornata. Ragazzi, dalle 6 alle 7 è il momento più duro della giornata e lo so bene perché sono qui in radio anch'io con voi. Io sono Chuck Bird, loro sono i Kiss e stanno arrivando i Thunder. Everybody wants her. You'll be coming. Early Bird Special. Sapete che potete contattarmi? Sapete che potete scrivermi le vostre storie di rock and roll? Sapete che potete insultarmi? No, per favore, non insultatemi, ragazzi. È già dura essere qui dalle 6 alle 7. Se poi vi mettete anche a insultarmi, ragazzi, parto col piede sbagliato io, non solo voi. bird@radiorockfm.com è aperta per le vostre lettere. Massimiliano è un passerottino di Cinisello Balsamo che mi scrive: ciao Chuck, grazie di esistere, fratello. Ascolta Rock FM, ascolto Rock FM da più di 10 anni. L'Early Bird Special è proprio quello che ci voleva per cominciare la giornata nel verso giusto. È tutto scritto, non mi sto inventando nulla. Sembra strano, ma se oltre alla musica, con la M non solo maiuscola, ma anche in eretto, c'è anche chi racconta qualche aneddoto e fa compagnia con la voce allegra, proprio come fosse un vecchio amico, si parte col piede giusto. Già da prima era la mia unica radio, ma d'ora in poi guai a chi me la tocca. Giù le mani da Rock FM. Grazie Massimiliano. Per te Georgia Satellites. Keep your hand to yourself. Keep your hands to yourself. Keep your hands to yourself. Yourself. Early Bird Special! E anche questa puntata di mercoledì metà settimana volge al termine. A me non rimane null'altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto e lasciarvi con i restanti programmi da Rock FM. Tra pochissimo, pochissimo, arriverà l'Ariele con Freak Anthony e il pane, burro e rock and roll. Vi ringrazio per l'ascolto, Chuck Bird vi dà appuntamento a domani mattina, puntuale, dalle 6 alle 7, da Rock FM. Aloha!